nelle nostre povere case, dove il sole non scalda mai e la vita è quella che tu sai. E da quando ti amo che penso di andarmene via da qui, perché il nostro domani è solo mio e tuo. Guarda lì cos'è mio padre, è da un anno che non ride mai, è già vecchio e tanto stanco. No, io non voglio finire così. Posto migliore per noi, che abbiamo tutto davanti a noi, c'è un posto migliore per noi, dove la nostra vita comincerà. E da quando ti amo che penso di andarmene via da qui, perché il nostro domani è solo mio e tuo. Guarda lì cos'è mio padre, è da un anno che non ride mai, si rovina per due lire, non basta mai per tutti noi. Notte e giorno così, ci dà dentro anche io sai. Giorno così, c'è un posto migliore per noi, che abbiamo tutto davanti a noi, c'è un posto migliore per noi, dove la nostra vita comincerà. C'è un posto migliore per noi, che abbiamo tutto davanti a noi, c'è un posto migliore per noi, dove la nostra vita comincerà.